Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Non parleremo oggi di Alitalia, è già questa forse una notizia, nel senso che Alitalia, il ministro Lupi ha dichiarato anche oggi che l'intera operazione dovrebbe concludersi nel fine settimana, noi ce lo auguriamo, chiaramente, però da questo punto di vista oggi non si segnalano particolari novità, così come c'è ancora attesa, ma ne parleremo in apertura, per quelli che saranno i dati diffusi dall'Istat a inizio mese, agosto chiaramente, sul PIL, anche se ormai anche oggi l'ABI, ossia l'Associazione delle Banche Italiane, ha stimato un PIL che non andrà oltre lo 0,3%, quindi ormai il consenso è unanime, Fondo Monetario, Banca d'Italia, lo ricordavamo la scorsa settimana, Centro Studi Confindustria, e quindi sul fatto che avremo una crescita più debole, decisamente più debole rispetto alle attese. Ci sono invece nuove incertezze che potrebbero arrivare sul fronte del nostro export, ma non solo italiano, chiaramente dell'export europeo, per le sanzioni che dovrebbe varare l'Unione Europea domani contro Mosca. Sono sanzioni commerciali, comprenderebbero le limitazioni all'accesso ai mercati di capitale, agli scambi nei settori difesa, energie e tecnologie sensibili. Le sanzioni però nel settore difesa non dovrebbero avere effetti retroattivi. Faccio notare che c'è un contratto, per esempio, della Francia da 1,2 miliardi di euro per la fornitura di due navi porta elicotteri Mistral proprio alla Russia. E sul fronte energetico dovrebbero per ora essere colpite solo le importazioni europee di petrolio e non di gas. Lo dico perché è chiaro che la vicenda delle sanzioni arriva dopo la pressione anche americana. Gli americani hanno inasprito le loro sanzioni verso il Cremlino per l'atteggiamento preso da Mosca nei confronti della vicenda ucraina, ma ahimè, caso ben più recente per l'abbattimento del volo della Malaysian Airlines. E quindi il tema è di carattere prevalentemente politico, ci mancherebbe, però nostro obbligo e compito è anche valutare quelle che potrebbero essere le ricadute sul fronte commerciale, con la massima obiettività e senza dare giudizi, perché la Russia è il terzo partner commerciale europeo e l'Unione Europea acquista il 76% del gas e l'84% del petrolio russo. Avete letto forse nei giorni scorsi che Mosca, come ritorsione verso gli Stati Uniti comunque le imprese occidentali, ha minacciato ritorsioni nei confronti della catena di fast food McDonald's, sostenendo che c'era scarsa igiene e i prodotti erano di eccessivo apporto calorico. In realtà tutti hanno voluto leggere una ritorsione di carattere commerciale, e minacce avrebbero riguardato anche i colossi petroliferi britannici Shell e British Petroleum, ma secondo i più pessimisti sarebbero a rischio tutti i progetti di esplorazione condivisi con le compagnie occidentali, Eni compresa. Addirittura c'è chi si spinge a dire che sarebbero a rischio anche i mondiali di calcio che la Russia dovrebbe ospitare nel 2018, ma questo mi sembra, diciamo, più in là nel tempo. Di questo parleremo anche di quanto è successo in Sicilia, nel senso che questa volta non c'entra l'amministrazione pubblica siciliana, ma la banca giapponese Nomura International, quella che alcuni di voi ricorderanno, è uno dei colossi bancari mondiali, ma alcuni di voi la ricorderanno per la vicenda Monte dei Paschi, e quindi per quei prodotti su cui c'è un'inchiesta della magistratura in corso, Santorini e Alexandria, per citare i nomi. Dicevo, la banca giapponese Nomura International è stata oggetto questa mattina di un provvedimento di sequestro di 104 milioni di euro eseguito dalla Guardia di Finanza di Palermo. Dopo una articolata indagine di polizia, le indagini avrebbero accertato la responsabilità amministrativa della banca d'affari giapponese per i reati di truffa commessi da propri funzionari dirigenti, reato che avrebbe cagionato alla regione Sicilia un danno intorno ai 175 milioni di euro. e nell'inchiesta sono indagati per truffa Marcello Massinelli e Fulvio Reina, consulenti dell'ex presidente della Regione Sicilia, Salvatore Cuffaro, e anche alcuni funzionari degli studi credito. Di cosa si tratta sostanzialmente? Una cartolarizzazione dei crediti sanitari e tre complesse operazioni di finanza derivata, di nuovo con i derivati. Praticamente la Regione Sicilia avrebbe ceduto 630 milioni di euro di crediti vantate dalle strutture sanitarie siciliane nei confronti proprio della regione. Ne parleremo più avanti, anche perché la vicenda, se venisse provato un danno di 175 milioni di euro, acquisterebbe tutta un'altra prospettiva. Poi la borsa, meno 0,51% oggi Milano, devo dire assolutamente in linea con la maggior parte delle borse europee. Francoforte perde lo 0,56, Londra meno 0,20, la maggior parte perché Parigi invece guadagna lo 0,30%, l'America perde lo 0,20%. Tra i titoli segnalo oggi in flessione Mediobanca meno 3,40, Mediaset meno 2,80 come Finmeccanica e Ubibanca, e poi G-Tech che perde l'1,90, mentre Fiat, ma anche il Banco Popolare, la Popolare di Milano e la Popolare Emilia Romagna perdono l'1,6%. Chi guadagna invece? Iux più 2%, Ferragamo più 1,30, Campari più 1, Prismian più 0,70 come Snam, Rete Gas. Euro stabile a quota 1,3440, 349-238-6666 per i vostri sms e poi la pagina di Focus Economia su Facebook. Alcuni di voi stanno già facendo degli esempi e dei parallelismi, diciamo, su via sms su quanto avvenne con la Libia di Gheddafi. Siamo d'accordo, però alcuni dicono che non si dovrebbe bombardare la Russia di Putin come la Libia di Gheddafi. Allora, a parte il fatto che poi la valutazione sull'operazione su Gheddafi uno la può dare di carattere, diciamo così, etico, morale, oppure di realpolitik, come si chiamava una volta, di realismo negli equilibri di potere. E mi sembra che se uno volesse guardare l'operazione libica sotto quest'ultimo aspetto, non dovrebbe per forza ammettere che la situazione sia di molto ingarbugliata adesso. Poi, se uno giustamente avanza delle obiezioni di carattere etico, di principio, siamo d'accordo. Se uno si limita a guardare la realpolitik e il realismo delle cose, si rende conto che la Libia non è che adesso sia, diciamo, in una situazione di tranquillità, però sempre con una realpolitik. Per favore, non paragoniamo quello che è il peso di una potenza, di una superpotenza mondiale come la Russia, con quello che invece è il peso, ed era il peso della Libia di Gheddafi. Poi so benissimo che per via di principio tutti dovrebbero essere uguali, però i principi sono una cosa, la realtà della politica estera è un'altra, e oltre le sanzioni con la Russia non puoi andare, diciamocela tutta, su. Per cui il tema non è quello, il tema è capire che cosa, in maniera molto oggettiva, poi uno può valutare se sia giusto o no dare le sanzioni alla Russia nei confronti della vicenda ucraina, però valutare che cosa questo potrebbe comportare, visto che, ripeto, l'Europa, l'area euro è il principale partner commerciale della Russia. Andiamo avanti con le altre notizie, visto che parlavamo del parallelismo, diciamo, più o meno improprio con Gheddafi. Oggi, dopo l'incendio di un deposito di benzina, è stato colpito ieri notte in realtà da un razzo vicino a Tripoli, ha preso fuoco un secondo serbatoio di carburante. La situazione è molto pericolosa, il governo libico addirittura ha parlato di rischio di catastrofe umanitaria e ambientale. Staremo a vedere, sperando di non dover dare nuove notizie su questo. Sul fronte dell'economia internazionale invece, se non cambia qualcosa, e se abbiamo capito bene, mancano meno di 72 ore, cioè, 3 giorni, al nuovo default, fallimento dell'Argentina. Se non si troverà infatti un accordo entro mercoledì, l'Argentina sprofonderà in una nuova bancarotta. I pagamenti ai possessori di titoli ristrutturati, infatti, la vicenda è nasce con la Corte di Giustizia americana che ha dato ragione agli hedge fund, ai fondi speculativi, che non avevano accettato l'accordo che hanno accettato invece la maggior parte dei risparmiatori, di riavere meno soldi e con una scadenza molto più lunga, il famoso debito argentino che fallì, come purtroppo 430.000 famiglie italiane sanno molto bene, perché avevano titoli in portafoglio. Dicevo, siccome la Corte di Giustizia americana ha dato ragione agli hedge fund, quindi ai fondi speculativi, che non avevano firmato quell'accordo e quindi adesso l'Argentina deve pagare gli hedge fund, c'è anche il rischio di tutto insieme di ricorsi a catena. Ma insomma, se i pagamenti ai possessori di titoli ristrutturati sono congelati dallo scorso 30 giugno, quando era atteso il versamento di una cedola, e il mese di tolleranza previsto prima di ufficializzare il mancato pagamento, quindi il fallimento, cioè non sei in grado di pagare, è ormai agli sgoccioli, visto che l'Argentina deve pagare integralmente i titoli originari di tutti quelli che non avevano aderito all'accordo, la somma che dovrebbe sborsare il governo argentino oscilla intorno ai 15 miliardi di dollari in prima battuta. Questo se poi non viene innescato un diritto di un ineguale trattamento da parte di tutti gli altri che invece hanno aderito al rimborso argentino, ma potrebbero dire: beh, noi abbiamo perso tanto, adesso visto che paghi alcuni tuoi creditori devi pagare anche noi. Comunque l'Argentina, in mancanza di un accordo, non è in grado di rispettare nessuno dei due adempimenti, sia quello da 15 miliardi, figuriamoci quello che venisse esteso a tutti i debitori dell'Argentina. Il mediatore nominato per facilitare l'accordo fra l'Argentina e i fondi speculativi di hedge fund, si chiama Daniel Pollack, ha detto: resto disponibile per l'Argentina in qualsiasi momento, però non abbiamo avuto nessuna notizia dall'Argentina dallo scorso 25 luglio. Lo spread argentino, in attesa, sperando magari in un negoziato all'ultimo minuto, ha toccato quota 1089 punti. Lì la differenza non viene calcolata con il bund tedesco, ma con il T-bond, il treasury bond americano. Comunque 1089 punti. Andiamo all'Italia, dove c'è un dato sulla fiducia dell'impresa a luglio che segna un nuovo rialzo. Raggiunge i 91 punti contro gli 88 di giugno. Non si era mai registrato un livello così alto della fiducia degli imprenditori dall'agosto del 2011. Bene anche la fiducia del commercio al dettaglio, nonostante i dati che abbiamo visto nel mese di giugno sulle vendite al dettaglio, sui consumi. Anche in questo caso il mondo del commercio al dettaglio ha il livello di fiducia più alto, ce lo dice l'Istat. So già le polemiche che queste dichiarazioni susciteranno. Comunque, secondo l'Istat, è al livello più alto dall'aprile del 2011. Sono in aumento i giudizi sulle vendite, mentre calano le attese comunque per il futuro. Si ridimensionano anche le giacenze di magazzino. Anche nel settore servizi la fiducia è ai massimi dal luglio del 2011. La vicenda Eni. Allora, 20.000 persone hanno attraversato stamattina in corteo Gela a difesa della raffineria dell'Eni. Lavoratori, sindacati, ma anche molti cittadini e le rappresentanze istituzionali della provincia di Caltanissetta. C'era anche il segretario regionale della CISL, Maurizio Dernava, ma anche il leader nazionale della CGIL, Susanna Camusso, e il vescovo di Piazza Armerina, Monsignor Rosario Gisana, che aveva inviato una lettera aperta alla diocesi chiedendo per Gela non tagli ma investimenti. I sindaci del comprensorio, è arrivato anche un messaggio dell'arcivescovo di Monreale. Dicevo, c'era anche il leader della CGIL, Susanna Camusso, ascoltiamolo a margine del corteo. Non si capisce perché in un paese che ha un drammatico problema di infrastrutture si comincia ad abbandonare proprio ciò che le infrastrutture le ha. È indubbio che alcune grandi vertenze che sono concentrate sulla Sicilia hanno determinato una grande incertezza rispetto al futuro. E poi anche la posizione di Rosario Crocetta, presidente della Regione Sicilia. L'Eni non creda che la resistenza si fermi a uno sciopero generale, perché i lavoratori di Gela sono abituati a grandi battaglie e le istituzioni in Sicilia sapranno tenere duro questo ritmo per impedire l'ennesimo atto di tradimento nei confronti della Sicilia. Allora, vediamo se adesso il mio tasso di impopolarità aumenterà. Da questo punto di vista, attenzione, è chiaro che 3.000 posti di lavoro in una situazione drammatica come quella siciliana sono una cosa devastante. Però due cose, io riporto le dichiarazioni del numero uno dell'ENI, Claudio Descalzi, lo scorso 19 luglio, era Maputo durante la missione del governo in Mozambico, e ha detto: non abbiamo intenzione di andarcene da Gela, né vogliamo toccare l'occupazione, abbiamo intenzione di investire 2 miliardi e 100 milioni in diversi progetti, tra i quali la trasformazione in raffineria verde per riconvertire il personale. Non abbiamo intenzione di accedere agli ammortizzatori sociali, quindi cassa integrazione, né di chiedere contributi al governo. Dobbiamo però trovare una nuova strada, perché la raffinazione non ha futuro non solo in Italia ma anche in Europa, dove hanno chiuso 19 raffinerie. Dal 2009 abbiamo investito nel reparto della raffinazione quasi 3 miliardi, ma abbiamo avuto perdite in Italia di 6 miliardi. Bisogna trovare un'altra strada e sono fiducioso che si troverà una soluzione positiva per Gela, per la Sicilia e per l'ENI. Allora, io dico due possibilità: o uno non crede a quello che dice Descalzi, e ne hai diritto, per cui va bene. Però se uno crede a quello che dice l'amministratore legato dell'ENI mentre è in missione con il Presidente del Consiglio, e l'ENI è partecipata da un azionista di maggioranza che si chiama Tesoro, allora la protesta su cos'è? Perché è verissimo, non lo dico, cioè, che la raffinazione ha sempre meno futuro, che hanno chiuso le raffinerie in Europa. Mi ricordo un po' la polemica sulla chimica. La chimica di base, aveva ragione l'allora amministratore delegato dell'ENI Mincato, non aveva più futuro in questo paese, ma per, mi rendo conto che c'erano centinaia di posti in discussione, ma si continuava a difendere la chimica di base, manco fossimo un paese in via di sviluppo. Allora, un gruppo come l'ENI ha anche il dovere, oltre che il diritto, di presentare un piano strategico, di decidere dove puntare e dove no. Se poi Descalzi dice non toccheremo l'occupazione, investiremo 2 miliardi, dovremo riformare, diciamo, i dipendenti perché vogliono puntare a una raffineria in verde, ripeto, o uno non gli crede, allora giustamente manifesta e protesta, o se no però non è che può manifestare solo per il mantenimento dello status quo. E visto che abbiamo fatto sentire le dichiarazioni di Susanna Camusso, io invito a leggere oggi un articolo di un collega che ogni tanto citiamo, che è Dario Di Vico, su Corriere della Sera, Massimo Fair Play, perché obiettivamente la descrizione della CGIL trincerata nella difesa del teatro dell'opera di Roma e nella difesa dei posti di lavoro di Alitalia, che è una compagnia che perde più di un milione e mezzo di euro netti al giorno, è veramente, lo dico con il massimo rispetto per la storia sindacale, è veramente una forma di vetrosindacalismo che poi porta acqua al mulino di chi dice i sindacati sono per la conservazione dello status quo e non per la modernizzazione del paese, difendono chi è già dentro e non pensano al futuro. Io non capisco veramente come si faccia a difendere la vicenda del Teatro dell'Opera di Roma con 3.000 biglietti già venduti agli stranieri, già prenotati per gustarsi la boemia, rimarranno fuori dal teatro, e come si faccia a dire, in assenza di un piano alternativo, a bocciare l'unica barlume, ma grazie al cielo che è arrivato un gruppo come Etihad che vuole investire in Alitalia. Immaginate se Abu Dhabi avesse fatto un'altra scelta, avesse scelto un'altra compagnia aerea, noi ci ritroveremmo con l'Alitalia che appunto perde 500, vado a memoria, 60 milioni il bilancio diffuso anche off the record perché non l'hanno pubblicato, di euro netti all'anno, senza che nessuno se la vuole comprare. Alla fine ce la terremo noi, dovremo farla chiudere, farla fallire, non lo so, privarci di una compagnia nazionale e di bandiera, non so, ogni tanto calarsi anche in questo mondo non farebbe male, lo dico anche nei confronti della vicenda Eni. Cioè, andiamo a vedere se è seria la proposta di Descalzi prima di dire no, non si tocca niente alla raffinazione, deve stare a Gela così com'è. Se un gruppo ti dice attenta, la raffinazione è in difficoltà non solo in Italia ma in tutta Europa, se l'ENI ha perso 6 miliardi dal 2009 investendone 3, Ma non è che gli si può chiedere di fare beneficenza con il massimo rispetto per tutti, gli si può chiedere di riconvertire questi operai e quindi di non lasciarne a casa o di lasciarne a casa un numero esiguo, riconvertirli con altre mansioni, quello sì, ma protestare solo perché si vuole che Gela continui a raffinare petrolio, a me sembra di nuovo trincerarsi su posizioni vetero, vecchie. Poi non è che decidiamo noi, decide il corso della storia, poi viene superato la storia stessa. Comunque, visto che parlavamo di Alitalia, boom di utili trimestrali, non per Alitalia chiaramente, ma per Ryanair, più 152% a quasi 200 milioni di euro, e sull'anno Ryanair conta di avere un utile tra i 620 e i 650 milioni di euro. Allora, visto che alcuni mi chiedono ma che è successo all'opera di Roma Nulla, ci sono 3.000 biglietti venduti agli stranieri che vorrebbero vedere la Bohème di Puccini, ma la protesta dei sindacati, anche se ieri si è cercato un accordo in extremis, lo ha cercato il neo assessore alla cultura Giovanna Marinelli, che appunto ha convocato oggi i sindacati confederali di categoria, e per evitare appunto la liquidazione che aleggia sul teatro dell'opera, però dicevo, sono 3.000 turisti stranieri che hanno prenotato i biglietti dello spettacolo, vogliamo pensare anche a loro? Chiedo. Vedo che alcuni propongono soluzioni in cui i sindacati si siedano al tavolo e chiedano dei chiarimenti, dei paletti nel caso di Gela. Certo, io dico semplicemente, però posso dire una cosa, ripeto, forse oggi il mio tasso di popolarità non salirà, ma quando vedo i vescovi che si mettono a sfilare, ho capito che il vescovo sfila, i sacerdoti, i comuni, i sindaci, i presidenti della provincia, tutti quanti lì, no, fermi, non è ovvio che 3.000 dipendenti a Gela sono importanti, però voglio dire, i vescovi pensano giustamente alle anime e va benissimo, un manager, un amministratore delegato di un gruppo pensa ai conti, dovrebbe pensare ai suoi azionisti, questo è il suo mandato, no, poi non così come il vescovo non fa il manager non fa il vescovo, fine. Poi è ovvio che essendo l'ENI partecipata al 30% dallo Stato italiano, a cui distribuisce dividendi, non si muove come un normalissimo gruppo privato, e infatti le dichiarazioni De Scalzi che io citavo a mio avviso erano rassicuranti. Poi ripeto, e concludiamola qui, uno può anche dire che non si fida di De Scalzi e quindi ritiene che l'ENI a Gela andrà a chiudere e basta. Ripeto, faccio notare che essendoci una partecipazione del 30% dello Stato, l'ENI ha anche una sensibilità politica, mettiamola così, più alta quando opera in Italia rispetto a altri gruppi privati. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. E allora, partiamo con col primo tema, la pressione sulla Russia dopo l'incidente della Malaysian Airlines, ma anche il fatto che domani l'Unione Europea dovrebbe varare un nuovo pacchetto di sanzioni commerciali contro Mosca. Stiamo parlando del terzo partner commerciale europeo, da cui l'Unione Europea acquista il 76% del gas e l'84% del petrolio russo. Mi rendo conto che sia molto delicato, perché andiamo a ragionare tra ideali, idealismo e realismo, ma faccio notare che si è fatta più rigida la posizione della Germania, che è disposta ad aumentare il pressing sul Cremlino, nonostante sia il paese che intrattiene da sempre i maggiori rapporti commerciali con la Russia. Il mitico Wolfgang Schäuble, il falco, del governo Merkel. Ieri infatti ha affermato: gli interessi economici non possono essere l'unica e principale priorità di un paese. Minare la pace e la stabilità rappresenta un rischio per l'economia. Però la Germania vorrebbe che di questa cosa si facesse carico tutta l'Europa, e chiaramente anche l'Olanda è in prima fila, visto che il volo era partito da Amsterdam e purtroppo c'erano numerosi olandesi su quel volo. Faccio notare che anche in questo caso l'interscambio tra Olanda e Russia vale 150 miliardi di euro, e pensate che dal porto di Rotterdam ogni anno transitano merci russe per un valore di 70 miliardi di euro. Quanto all'Italia, noi esportiamo verso la Russia beni per 10 miliardi di euro, è il 5% del nostro export, e importiamo beni per 20 miliardi, in realtà 7 miliardi sono gas. Le banche europee poi sono esposte verso la Russia per 156 miliardi di dollari, 40 miliardi le banche americane. Invece in prima fila le banche francesi 51, poi quelle italiane 28 e le tedesche 23. Non è, vale la pena sottolineare appunto che le banche italiane, voi anche per la presenza dei nostri due colossi Unicredit e Intesa, sono dopo quelle francesi le più esposte come singolo paese verso la Russia. Allora, intanto oggi la Corte dell'AIA ha chiesto alla Russia di pagare 50 miliardi di dollari per l'espropriazione della Yukos Oil Company. Ricorderete che il suo proprietario fu spedito in Siberia e ci ha passato dunque, vado a memoria, almeno 10 anni. Sì, perché era dopo un paio d'anni, comunque adesso ritroviamo anche la data esatta. 50 miliardi per l'esproprio della compagnia Yukos, dubito che questa cosa... Ma il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov ha detto la Russia userà ogni mezzo giuridico a sua disposizione per difendere la propria posizione dopo la condanna, appunto, a versare 50 miliardi di dollari per risarcire gli azionisti della Yukos. Professor Mario De Aglio, buonasera. Buonasera a lei. Allora, professor De Aglio, con lei dopo il metro vorrei parlare di questa rischio, stavo per dire grana, ma sarebbe irrispettoso nei confronti di ciò che ha originato questa vicenda, l'appoggio russo alla parte filorussa dell'Ucraina e poi il ruolo ancora non chiaro delle milizie filorusse ed eventualmente della Russia nell'abbattimento del jet, la posizione americana sull'inasprimento delle sanzioni, e noi chiaramente, oltre che essere più commercialmente vicini, lo siamo anche fisicamente, geograficamente vicini alla Russia. Le chiedo ancora 2 minuti di pazienza perché ho il metro e la pubblicità, visto che l'ho in collegamento le chiederò anche un commento sulle previsioni sul PIL uscite in queste settimane e anche l'atteggiamento che dovrebbe tenere il nostro governo. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, professor De Aglio, partiamo dalla Russia. Intanto abbiamo visto la data esatta, era l'ottobre del 2003 quando fu espropriata dal governo Putin la Lukoil di Mikhail Khodorkovsky. Khodorkovsky fu spedito in Siberia, diciamo, a riflettere sulla cosa, ci è rimasto 10 anni ed è stato liberato nel 2013. I 50 miliardi nascono da quell'operazione obiettivamente indegna. Adesso il motivo per cui Khodorkovsky fu spedito in Siberia è perché era un avversario di Putin, su tanti ragionamenti. Allora, dicevo, professor De Aglio, immaginando per un attimo di non avere un'idea etica, o meglio diciamo una valutazione anche politica, su chi abbia la responsabilità per la vicenda ucraina e soprattutto per l'abbattimento dell'aereo, stiamo scherzando col fuoco? Perché l'America pone sempre i principi, poi loro stanno distanti, è un'altra potenza. Qui noi siamo un'Europa che è molto dipendente dalla Russia per il gas e per il petrolio, che alcuni paesi come l'Olanda e la Germania che sono assolutamente esposti nei confronti della Russia, e noi nel caso delle banche comunque dell'interscambio commerciale. Professore? Ma io penso che se noi mettiamo delle sanzioni serie, non di facciata, sulla Russia, è come se le mettessimo a noi stessi, quindi facciamo una politica pesantemente negativa, assolutamente assurda. E questo sulla base di evidenze tecniche che siano stati i russi responsabili di questo abbattimento molto deboli. Non dimentichiamoci il precedente, le bombe atomiche di Saddam, che gli Stati Uniti giuravano e spergiuravano. Le armi chimiche, sì. Le armi chimiche, poi c'erano, mi pare, anche sì, le armi chimiche di Saddam, che non erano assolutamente vere, non c'erano. Mi pare che dovremmo fare molta attenzione prima di fare un patto del genere, un passo del genere, e soprattutto, se mai lo dobbiamo fare per motivi morali, deve valere un principio, che i sacrifici di questo devono essere uguali per tutti, Stati Uniti compresi. Non è che li abbiamo solo noi, gli Stati Uniti si devono impegnare a darci, in qualche modo, procurarci al prezzo che pagavamo ai russi, il petrolio che non prendiamo più dai russi, perché poi quando si va a finire sulle cose lì, ci devono indennizzare per gli affari che le nostre banche stavano facendo e che non saranno completati. In sostanza, o abbiamo un riequilibrio tra Stati Uniti e Europa, che non si vede proprio all'orizzonte, oppure l'Europa semplicemente non può. Non può sulla base di un'evidenza tecnica così bassa come quella che finora abbiamo sull'abbattimento. Se no diciamo più francamente che vogliamo fare guerra ai russi, ma vi sembra il caso? A me francamente sembra proprio di no. Ecco, quindi lei dice attenzione perché rischiamo di seguire l'America su una posizione ideologica, posso forzare il concetto, comoda per gli americani, perché sennò uno potrebbe applicare anche le sanzioni nel confronto degli Stati Uniti per quello che è successo in Iraq adesso. Diciamola tutta, non è che un milione di morti in Iraq per delle armi chimiche inesistenti possono, se vogliamo applicare questi principi, possono diventare poca cosa. Allora dovresti fare le sanzioni contro gli Stati Uniti. Ecco perché io dico, attenzione, altri programmi ragionano in questa radio di politica, di opinioni, di scelte. Io qua sto cercando di ragionare sull'effetto economico, perché se iniziamo a entrare nel campo delle opinioni, dovrei dire, non avrei nessun problema a dirlo, che le sanzioni dovrebbe cassare anche la Gran Bretagna e gli Stati Uniti d'America e forse anche l'Italia, visto che seguì quella scellerata scelta di Bush quando si inventarono di sana pianta l'esistenza di armi chimiche in Iraq e fecero un'invasione che non era giustificata a quel punto, no? Certo. Per cui contro anche il principio dell'ONU stesso, con la balla del povero Colin Powell all'ONU a dover dimostrare la smoking gun, la prova fumante, che poi non era né una prova né fumante. Per cui, detto ciò, il rischio che noi corriamo come Europa qual è? Cioè la Russia secondo lei è in grado anche di minacciare ritorsioni, che quella è la cosa che a me spaventa di più? No, io penso che l'economia russa sarebbe più colpita dell'economia europea dalle sanzioni. Si troverebbe subito in una crisi molto grave, di quelle che possono anche far saltare Putin per esempio, ma noi saremo subito dopo. Questo inverno ce la caveremo, soprattutto se l'inverno non è molto freddo. È stato fatto qualche studio, insomma, facendo delle diversioni da altre fonti, pagando probabilmente caro un po' più di petrolio agli arabi, sperando che la Libia sia in grado di esportare qualcosa, mentre al momento non si esporta niente. Insomma, mettendo assieme tutti questi pezzi, un po' di Norvegia che dovrebbe venderci più petrolio, un po' di queste cose, con l'inverno ce la caviamo. Ma il problema non è tanto il cavarci da questo inverno, il problema è quello che succede al nostro sviluppo quando noi abbiamo delle fonti così insicure. Quindi questo richiederebbe una riconversione di gran parte dell'economia, soprattutto di due paesi, dell'Italia e della Germania, che sono i due maggiori esportatori verso la Russia. E anche di questo Italia e Germania, in una cassa comune come dovrebbe essere la NATO, se così vogliamo pensare che questo sia un problema degli alleati storici della NATO, dovrebbero essere pesantemente indennizzati. E chi ci indennizza? Sì, tra l'altro faccio notare che le difficoltà col primo giro di sanzioni si sono già avute, calo dei turisti russi in Italia, attenzione, anche qui bisogna, per usare il termine di Cuccia, i turisti si pesano, non si contano, perché è chiaro che i turisti russi che vengono in questo paese sono ad altissima spesa e lo sanno tutti quelli che alloggiano in Versilia, Forte dei Marmi o nei migliori resort italiani, un calo delle presenze russe, ma soprattutto un calo dell'export verso la Russia. A giugno abbiamo fatto meno 18%, lo dico perché è il calo più significativo, visto che in America le nostre esportazioni hanno fatto più 15 negli altri paesi non sono andate male, per cui c'è già stata una contrazione delle spese dei cittadini russi e della Russia in generale. E vorrei aggiungere una cosa, le esportazioni che noi facciamo in Russia sono in buona parte esportazioni molto buone. Sì, il mobilio, arredo, il design, certo. Sono, ma poi anche esportazioni di macchinari e impianti, su cui noi basiamo una parte di quello che ci resta della nostra abilità tecnologica, insomma. Quindi non solo Made in Italy, ma anche... Made in Italy di altissimo valore aggiunto, ecco, certo, ci mancherebbe. Esattamente, quindi il danno per noi sarebbe grande anche sotto questo aspetto. Abbiamo delle joint venture che abbiamo con i russi, in parte si sono ridotte, ma appena poco tempo fa i russi si sono comprati un pezzo di Pirelli. Voglio dire, abbiamo anche di Saras e dello stabilimento cagliaritano, certo, se non ricordo male, certo, Gazprom. Abbiamo 30 anni di legami, adesso si vogliono recidere questi legami di colpo e chi si è visto si è visto. Credo che per l'Italia, così come viene proposto, non sia semplicemente accettabile. Ecco, visto che l'ho in collegamento, professor Daglio, adesso vedremo domani che cosa capiterà, che cosa deciderà la Commissione Europea. Appunto, uno può decidere quello che vuole, anche perché qui partiamo dai principi. Faccio solo notare, una volta che stabilisci i principi, preoccupati anche delle conseguenze economiche. Questo voglio dire, non dico che non si debba avere una posizione dura e netta contro la Russia, stiamo solo analizzando, lo dico a chi scrive. Bene, stabilito il principio, poi occupa delle conseguenze economiche e quindi anche delle eventuali compensazioni. Lei ha ragione a ricordare, attenzione, non tutti i paesi europei sono esposti verso la Russia come Germania, Italia e Olanda, e quindi vediamo di capire se esiste ancora un'Europa o una NATO, addirittura lei citava l'ipotesi NATO. Visto che ce l'ho in collegamento, però le chiederei un'ultima cosa. Ormai tutti, anche l'ABI oggi, danno una crescita del PIL italiano allo 0,2-0,3, se va bene, l'Istat ha detto anche il referto anche zero. Secondo lei cosa dovrebbe fare il governo dopo il 3 agosto, quando uscirà il dato? Prendere atto oppure tirare avanti, andare in Europa? Cioè, chiedo. Iniziamo a raccogliere un po' di opinioni su questo. Intanto bisogna avere chiara una cosa, che tutto il mondo che è in rallentamento improvviso, imprevisto e mal calcolato. Cominciamo con gli Stati Uniti, celebre il primo trimestre di quest'anno, prima stima meno 0,1, seconda stima meno 1,8, terza stima meno 2,9. Cioè proprio c'è qualcosa che si è rotto nel modo di fare le previsioni, per cui non è possibile, sostanzialmente capire bene il valore di queste cifre. Detto questo, se andiamo invece al caso italiano e giochiamo sui decimali, è molto diverso se noi abbiamo una crescita, diciamo, dello 0,3 o dello 0,6, perché questa crescita fa da denominatore dei famosi rapporti debito su PIL e deficit su PIL, certo. Soprattutto deficit su PIL, su PIL che deve stare sul 3%, e noi siamo sul filo del rasoio. Se il PIL aumenta 0,6 probabilmente ci stiamo dentro, se aumenta solo dello 0,3 siamo fuori di 3 decimali. Quindi questa è la situazione nostra, quindi in teoria l'Unione Europea dovrebbe ricominciare a parlare di procedure di deficit eccessivo, eccetera. Siccome non siamo solo noi, ma in vario modo praticamente tutto il mondo che rallenta, a mio avviso la cosa saggia sarebbe che l'Unione Europea prorogasse di un anno gli obiettivi. L'ha già fatto una volta, lo rifaccia una seconda, perché la condizione mondiale è tale da non permetterci altro. La borsa, meno 0,59%, Andrea Fontana, Radio Cori, sulle 24 ore, buonasera. Buonasera Sebastiano. Allora, sì, mamma mia. Allora, Jux più 1,76%, Ferragamo più 0,80%, Luxottica più 0,60%, Prismian più 0,70%, Tod's più 0,30%, insomma c'è un po' di attenzione ciclica sul settore del lusso, archiviamola così, se non hai altro, se sei d'accordo, diciamo, no? Sì, sì, sono queste un po' le indicazioni. In prima parte dell'anno il lusso era stato un po' venduto perché aveva vissuto un bel 2013, adesso si sta un po' recuperando. Secondo qualche operatore, chiaramente i prezzi sono più accessibili d'ingresso, per cui ritorna ad essere un asset interessante come investimento. Le banche un po' in calo, Pop Milano meno 1,90 come Banco Popolare, Ubibanca meno 2,5, Mediobanca meno 3,5, poi Pop Emilia Romagna meno 1,60, nonostante lo spread a 153 punti, c'è qualche motivo? No, diciamo che oggi è stata una giornata d'attesa complessivamente per la borsa e le banche stanno penalizzando perché sono il settore, l'asset in cui c'è ancora un po' da realizzare viste le ottime performance fatte dall'inizio dell'anno. Mediobanca in particolare aveva vissuto 4 sedute di fila di rialzo che sono state praticamente annullate con la perdita del 3,5% di oggi. Le borse sono proiettate sugli Stati Uniti, visto che questa settimana col dato del PIL, la Federal Reserve e a fine settimana dato sulla disoccupazione, da lì arriveranno diciamo le idee chiave per la settimana di investimenti. Oggi Wall Street è stata piuttosto fiacca e ancora piuttosto fiacca, tant'è vero che il Dow Jones segna meno 0,12 in questo momento e chiaramente il mercato europeo si è adeguato e ha preferito vendere. Ancora Mediaset c'è attesa per i conti di domani e il titolo oggi debole, meno 2,70. Sì, Mediaset aspetta soprattutto le indicazioni sulla raccolta pubblicitaria che stanno un po' seguendo quello che è il trend che è avvenuto per il PIL italiano di cui parlavi in precedenza con il tuo ospite, cioè all'inizio dell'anno le previsioni parlavano addirittura di un più 2% della raccolta pubblicitaria, qualcuno si spingeva molto più avanti e nei vari mesi si è ridotta questa previsione, tant'è vero che adesso pensare a una raccolta pubblicitaria piatta rispetto al 2013sarebbe già un'ottima notizia, quindi il timore del mercato che domani Mediaset invece parli di una seconda parte dell'anno e di un autunno in particolare ancora difficile da interpretare e su questi dati solitamente il mercato vende. Migliori e peggiori, Roma Calcio più 10,90, Borgo Sesia più 6,20, Reno De Medici più 4,5, peggiori, Bialetti meno 4,38, investimenti e sviluppo meno 4,92%. Grazie Andrea Fontana, Radio Corriere sulle 24 ore. E noi invece restiamo in tema di finanza, ma per parlare del provvedimento di sequestro operato a Palermo dalla Guardia di Finanza nei confronti della banca giapponese Nomura International. Due risposte velocissime al 349-238-6666. C'è chi dice: allora non ho capito Barisoni, siccome la Russia ci va bene come paese che spende da noi, allora possono pure sterminare un popolo. No, lei non ha proprio capito, perché non ho mai detto questo, ho detto semplicemente si prendono le sanzioni che si vogliono prendere e poi però si calcoli che ci sono delle ricadute economiche. Poi sullo sterminio di un popolo non so se si riferisca a quello ceceno o no, ma sull'Ucraina io lo sterminio non l'ho visto. Faccio notare, se vogliamo essere veramente così etici, che allora bisognerebbe prendere le sanzioni anche nei confronti degli alleati, America in testa, che hanno creato 1 milione di morti in Iraq e non mi sembra, per creare una situazione più equilibrata, in assenza, anzi in presenza di un falso storico, le armi chimiche di Saddam, ok? Perché allora non è, se la mettiamo sull'etica ne ho per tutti, e lì invece non penso che qualcuno voglia fare le sanzioni contro gli Stati Uniti. Dall'altra parte, sulla mia posizione su Gela, dove ho detto semplicemente andare contro la storia se le raffinerie chiudono in Europa non ha senso, occorre invece chiedere un impegno forte all'ENI alla riqualificazione. C'è chi scrive: mi dica la quota che paga l'ENI in Confindustria, lei ha capito tutto, bravo, va bene così, complimenti. Nomura. Secondo la Procura della Repubblica di Palermo, la banca Nomura, quella giapponese famosa per la vicenda Monte dei Paschi, Santorini e Alexandria, avrebbe organizzato una truffa a danno della regione Sicilia con un danno intorno ai 175 milioni di euro, cartolarizzando un insieme di crediti sanitari per 630 milioni di euro che le strutture sanitarie siciliane vantavano nei confronti della regione. Oggi la Guardia di Finanza ha sequestrato 104 milioni di euro. Della cosa si era già occupato due anni fa sul Sole 24 Ore Claudio Gatti, che è in collegamento con noi. Claudio, buonasera, se ci ricostruisci la vicenda. Buonasera a voi. La vicenda di Nomura in realtà risale ancora prima, perché è nel 2007 che per la prima volta ho scritto della banca giapponese e dei suoi rapporti con gli enti regionali e locali territoriali italiani. All'inizio era stata la regione Liguria, poi abbiamo scoperto che c'erano situazioni equivalenti nella regione Calabria e Sicilia. Quello che distingue la vicenda ultima di cui si è occupato adesso il GIP del Tribunale di Palermo, ordinando il sequestro di beni per 100 milioni a carico di Nomura e di due consulenti finanziari, è ancora più grave, perché oltre a una banca straniera che piazza prodotti improbabilmente sofisticati a comuni, province e regioni che non avevano assolutamente la competenza per capirli, è emersa la figura di consulenti che avevano un piede da una parte e un piede dall'altra, e cioè rappresentavano gli interessi delle regioni, apparentemente, nello specifico la Sicilia, esatto, apparentemente. Però venivano pagati dalle banche per far fare più soldi del normale dovuto alle banche stesse. E questo, diciamo, ricorda in qualche modo altre vicende. Ma insomma, la cartolarizzazione, perché noi abbiamo sempre sostenuto che delle volte c'era quasi, adesso mi passa, passatemi il termine, la circonvenzione di incapace nei confronti di certi funzionari regionali quando, o comunali, quando venivano proposte certe cartolarizzazioni o strumenti derivati da banche d'affari. In questo caso tu stai dicendo che in realtà erano perfettamente consapevoli e che formalmente lavoravano per la regione, ma sostanzialmente per la banca. Assolutamente sì, cioè queste operazioni comportavano prodotti sinking fund, swap, che assolutamente i funzionari pubblici non erano in grado di capire, ma chi li capiva erano gli stessi consulenti delle regioni, nello specifico due consulenti siciliani di Cuffaro e un consulente della regione Calabria, che hanno lucrato da questi prodotti in cui le regioni hanno perso o avevano potenziali perdite molto grosse. Le banche, e nello specifico Nomura, hanno fatto profitti dell'ordine di 80 milioni fra Calabria e Sicilia, e se non ci fosse stata un'inchiesta della Procura di Milano, veramente, lì tutto il merito del nucleo di polizia tributaria di Milano, del maresciallo Tiravo, che ha cominciato questa inchiesta. Poi maresciallo? È intervenuto il maresciallo Domenico Tiravo, che è stato il primo a occuparsi questo tema, al procuratore aggiunto Robledo. Okay. Poi la Procura di Catanzaro con Gerardo Domenigliani, che ha portato avanti l'inchiesta sul fronte calabrese, e sono stati loro a passare poi il materiale. Potremmo dire che una vecchia frase, sono ricordata di Formica, che il convento è povero ma i frati sono grassi, nel senso che poi la regione si becca 175 milioni di euro di danni, mentre però i funzionari si sono con questo arricchiti. Vedremo. Grazie Claudio Gatti. Devo però segnalare che domani, e lo segnaleremo ogni giorno per tutto il mese di agosto, sul Sole 24 Ore c'è, come già ricordavamo nei giorni scorsi, la guida pratica per la famiglia, dalla casa all'auto, dai figli alla pensione, come vivere meglio tra spese e risparmi. Per tutto il mese di agosto, e già da questa settimana, Focus Economia termina alle 18. Vi lascio al GR24, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.